Tony. Hey, you. A te, to gufo. Hey, you. I'm E me gufo. Hey, mi è entrato. E adesso, adesso. Ma il gatto da passato. No, no, cane arrosto. Cane arrosto. Hey, you. Era Luca. Luca Gufo stamattina. Sta soce adesso. Don Maria è la Basilica, la via. La Basilica. E mi sembra che è andato lì a controllargli la pressione. Sì, mi bisogna attenta quello che si mangia. Non si scherza, eh. Ehi, un arancio ma di che sta mangiando. E la Baritella si intendì a salare. Via lo grigio. La via la disegnata. E due noi la riceria sarà la pressione. E allora mi sbaglio che andrà di Luca a misurare la pressione, perché era la riceria che avrà detto. E la cosa tu ascia? Beh, non mi ha detto. Ha pigliato la bacchiglia e si è occupato. Ma quando mai ti mangi una rana? Io sì lo mangio, ma ne mangio tutti. Quello altro già me lo mangio, però la glicemia non me la passa lì. Quello normale me la passa lì. Infatti ne mangio tutti, due, tre, non di più. Beh, ti credo. Se sta zia Mari vuol dire che la glicemia era abbastanza alta, Io ho preso oltre i 400. A chi ha fatto il burro a mal di capo, figurate l'altro della riata, a chi di sopra, Se vi ha detto misura c'è la glicemia, c'è la glicemia. No, non è la glicemia, no, a chi di noi. Casino, infatti come, meno male già l'ha capito che deve stare attento a quello che mangia. Poi ci mangiarne un etto, mangiarne mezzetto, no? Sì, quando mi dici, ma noi me ne mangio in tre. Io ho assaggio due, tre spicci, non di più, quello normale. Se gli sopra me ne mangio pure due o tre, quelli non te la fanno salire la glicemia. Ce l'hanno lo zucchero, ma un bel basso. Lo so, però se lo sai, che se mangi corretto, cioè, non devi abusare, ecco, per esempio. Io ho visto dei panettoni a casa, dei panduri, boh, è andata a finire, si è mangiati, mi dice dai, ho sbagliato l'usa. Ma vabbè, comunque, io non lo so, comunque la glicemia è sempre stabile, massimo che gli sale è 141, non di più. Io stamattina la bisagna di Lunetti, viene a 111, poi prima di mangiare alla 1:30 me la misurata era 140. Vabbè, il mio mangiato a colazione. Il tè con una fetta di candone, se no per consumarlo, se l'ho messo qua sarà molto panettone. Era una festa. E poi a mezzogiorno me l'ho consumata e se l'avevo a 140. Mamma mia, sai quando? La notte è alta, prima di fare quella della notte. Tipo quella di notte c'aveva 147, se no è stabile, mamma c'era anche 89, 90, 91, 92, 100 spaccato. Così bisogna stare attenti. Gli hanno detto di fare quello che gli hanno detto, cioè, gli ha detto il diabetologo. Perché gli ho detto, dottore, ascolti, ma non si può dare questa donna una pastiglia, infatti quando ha visto le glicemie, e gli ha dato queste pastiglie e sta andando bene. Adesso c'ha le visite, fai verso marzo-aprile. Facciamo il coso per fargli fare la visita. Ah, io ce l'ho visto in inizio. Infatti, a giugno mi parla, non lo ricordo. Ma prima di andare me lo fa 10 giorni prima le analisi e anche le urine delle 24 ore e lui da lì vede se la sei rigore o no, Sì, ma dici, portate la macchinetta, la vicinia, quando vuoi. Perché in quella macchinetta si segna tutte le vicinie, sai? E ci devo abbagliare. Ah, beh, certo. Non lo sapevo che segnava tutte le glicemie, non lo sapevo. Sì, ci sono quelle due strisce nella macchinetta, una sale e l'altra scende e torna indietro, no? C'è anche l'orologio, la data. E ti segna tutte le glicemie, e dopo si chiude dal quaderno, ti hai scritto tu. E tu controlla la macchinetta dal quaderno, ti è vero l'orologio, che giusta, mi sa che hai segnato. Mamma mia, io dico mamma, ascolti, mi dico che non la segnava. Io in base al giorno prima mi regolavo, non si lamentava, oppure non me la segnava. Cioè, se la misurava non si lamentava di su, della glicemia che ha segnato. Comunque una volta lo stesso mi è capitato, questo è, prima di Natale, cioè va 227, di tuicchia, stava in ora amara, poi gliel'ho rimisurata, 178 così, 180 se non mi ricordo, però era alta, come mai da un dito all'altro cambia? Vuol dire non avevi messo bene il sangue nella piastrina e se la segnata variata. Lo devi mettere bene sulla piastrina, devi fare, andare fuori, sì, tu aspetti e esce il risultato. Ah, quello già lo so, grazie, c'è una di, quello già lo so, quando fa quel coso, quel segnale, fa pi, e poi aspetti un paio di secondi e ti segna la glicemia, io ormai mi ho fatto l'esperienza. Ma è una cazzata. No, anche a me quello che è capitato da un dito all'altro, magari mi dà, non me la segna a dare e dico, io ci me la misi lui, no, che mi dico a pulito, è varia, non lo so perché. Comunque lei, da due anni a questa parte, l'anno scorso, questa roba, fa due anni a, non lo so cosa, a febbraio, febbraio si invitava, dopo il compleanno. Beh, fa due anni, no, un anno, un anno a febbraio, che è diabetica. E lei ne abusava troppo, grazie, troppi dolci, cioè si mangiava zin così, senti, fritellimi, sono abusata. Prendeva le paste, un giorno sì e l'altra perciò sempre mangia di dolci. Si faceva le zuppe inglese, da 3 kg e non durava più di un giorno, Ma a me la diabete, in famiglia già, mia già, mamma la diabete, fratelli tutti diabetici, le sorelle sempre dalla parte di mamma, mia sorella diabete, l'altro mio fratello diabete, l'altro mio fratello stesso diabete, è una diabete ereditaria la mia, però a me mi è distinta da mangio, prima non è avvenuto, io me ne sono accorta che davia sempre zecchi, fai una lavora, mi dice un litro d'eva non mi bastava, una pulla di limonata è sempre zecchi. E allora, io ho fatto fare il studio, ho fatto la visita e mi ha detto, lei da fare l'istituto non mi ha saputo, l'ha pigliato un corso, lei si ha visto che il corso è qui. C'è il mellito così, La diabete mellito 2. Il 2 c'hai? In Samara è la mia. Samara è mellito e basta, senza numeri, dicevi a mamma. Però mamma non pensa mamma già chissà, che piglia i bacchisi e ne fate solo una insulina. Io ne faccio 4 insuline. Cioè, sempre l'insulina dall'inizio, nato già l'insulina dall'inizio. Vabbè, comunque mamma, prendola, dai, un po', riesco a fare qualcosa, dai. Quando finisce la pastiglia non è forza forza la diabete, quando fa l'insulina quella è grossa, la diabete, perché molte volte anche io ho provato a non mangiare niente, solo il tè, ma solo il telefono, la faccio stata due e sì. E poi a misura mia mi sa stata al mappo, una diabete strana. Allora, mamma via via, se faceva 10, no, 8, 8 a pranzo, 8 a colazione, 10 a cena e 16 per quella della notte, per, la fatta, per quasi un anno. Gli ho detto al dottore che passa così e così, se riusciva a dargli la pastiglietta, perché a me mi tiene troppo impegnato, cioè se mi esce un lavoro non posso mancare a lavorare. E allora ha deciso, gli ha detto, signora mi raccomando, la dieta. E poi già, penso che la stia seguendo bene la dieta. Come da lì, comunque anche da parte di mia mamma, la sorella e qualche fratello, anche il fratello di mia mamma che è l'unico che è rimasto, è diabetico, da poco. Ma la diabete ci sono vari tipi, c'è la diabete vecchiaia, ci sono le diabete ereditarie, sono tante maniere di diabete, capito? Noi sì, è difficile. Guarda che la Sardegna è il tasso più alto di diabete dell'Italia, lo so. Se vuoi campare mi paghi sui finiti, no, ciao, invece grazie, e uscire. Ma è un bisogno, ha tirato una nocciolina, l'ha attaccata, è un bicchiere di hanno le ghiande, si l'ha attaccata, è un bicchiere di vino, e con un bicchio di resta, in grazie mi diventa lui, ma ha tutto preso un bicchiere. Ma è, papà, la sono persa. Ah, sta aperto, tutti i buchi con le ghiande. Questo è un albero, tutti i buchi, un albero secco, pratico, di gambe di buchi. E vedo la stappa di tutti con le ghiande, papà, e lo scogliato le abbaglie in avanti, a venire in giro. Ma dov'è Ciove? Oh, me li ha sette, 4. C'è dalle 2, me lo guardo sempre, la domenica. Ho capito, via. Vabbè, cosa vuoi fare? Purtroppo è così. E gai su conto, un acchi. Beh, adesso è giusto il colibrì ed è attaccando lo scogliato, la che si ne mangia i miei ghiandi, lì, abbai. Fatemi piccata, mi scusami lo scogliato, adesso mi scusi da un'altra all'altro. Chi si ammazza le ghiande e chi si anda a venire male. Che addirittura. Ehi, adesso si è trasferito il buco dell'albero, lo scogliato, la chile da bicchelli, voglio avere la punta in quei bizzoni, il picchio mi pare. E il picchio che mangia queste cose. Ehi, con le ghiande, come era tutto bucato quell'albero? Stava tappando il buco, metteva la ghianda e il buco si riusciva a 30 euro. Andate a pigliare un'altra ghianda e tappava un altro buco. Magari sono tutti i buchi che hanno fatto io, in quell'albero. E senti, curatamente, mi cavalli. Ho legge nei primi, mi sono rosso diabetico ancora, non voglio questi palettoni, va. Oh, io, mi cavalli, con la ghianda, la ghianda, e pare che faccio la bassa la rimane. Ma questo è il panettone senza canditi. E basta, e là. Che buono. E io quasi ho fatto una festa e me la rimane. E allora, e mi mangio la mattina. Ma quando domani mattina, domani me la mangio, e qui la provo. A posto delle scorsate mi mangio una festa. No, adesso questa settimana vado a comprare un pandoro e lo faccio, lo condisco, cioè metto, come si dice, la crema pasticcera e con la strega e l'archemes e faccio tipo zuppa inglese. Ehi, già, sta buono. Poi adesso costano una cazzata, un ambasciatore brutto. Dunque conviene prenderli. Metti un pacco di merendina, con il sabbiffone, con il pandoro, con il panettone. urinato di lampa che me lo dimmi invece di il bandone. Come posso rugare poi? Via. Polizia! Questa carottina! Attento! Camarina! Io voglio trovare una fettina di panettone mandorlato, buono, eh? Senza coso, però a me non mi piacciono le scorze d'arancio, i canditi, come te li vuoi chiamare? Solo che io molte volte mi dico ti piace poco la Nutella? Ti piace poco a te la Nutella di Ghita, la Ritu, però? Eia, sì, sì. E la Ghita fa già, ma già badate la mia figlia, no, ma neanche io mi mangio la vita. Ma ti piace poco la Nutella? Ah, aio? Però ci perdo tempo. Luca, ma mi intendi? Ah, ti intendo. Graziano, e beh, la Nutella buona è. No, io mi ho mangiato a sera adesso, quella che dice, buona vita. A te sei Pontiloncino. Ah, te, tu Giuseppe Filoncino. E cosa ti mangi? Cosa vai? La gola un po' gusana, eh? Non è che hai fatto qualche giochetto a Pinocchio, no? No. Sì. Sì, a forte chiasso. Sì. Dove sei? Tu dove? Oh, io sono qua vicino a Graziano. Ah, tu dove sei? Già sono. Arrivi benissimo. E ti credo, cazzo, qua c'ho l'antenna dentro casa. Anche io ho preso dentro un caso, c'ho l'antennino piccolo, Ma quello di gomma? L'antennino, e allora? Era l'antenna, voglio vedere come... Perfetto, forte e chiasso. Ehi, mi avvisi benissimo a me, io sono col gommino. Ce l'ho la penna esterna, ma non la so mai. Stavo provando, adesso... E lasciala, se stai dentro casa. Ce l'ho dentro casa, ma vedremo un po', adesso vedi l'antennino, dai, vediamo un po' come esco. Ma arriva bene. Ehi, va bene, dai. A dopo, dai. Mi aiuto a 59, grazie. Sto costruendo una casa, lei. Mi dura 3-4, lì, sta una lenzuola, mi... tipo bene. Ma velpati sono. Ah, ho capito. Anche io sono. Hanno caldo. Ma io li pago 10 euro. Sai dove? Ma la Ushan di Pradanieta. Ma no, la Ushan, scusa. Hanno i rospi di Pradanieta. Di fronte a Maurizio c'è quel marocchino. Ma lì costano 10 euro il paio. 10 euro il singolo e 12 euro mi pare matrimoniale. Ma no. Ah, io ce li ho, a me a Parigi non mi sono fatti. Oh, è strano. Poi ce li ho in coso, quelli gli altri, sano caldo, poi io tipo, non mi tengo pesante, sono un coso sopra e basta, un piumone e basta, leggero. Un piumino, leggero, come le lenzuola, la buia, a tempo, c'è il piumino. è quella, così che non lo è, faro mia, va alla casa, mi lo mi, e sì, è questo. Sta qui. Sì, lo sto guardando. Guarda che bello lì a farti il bagno, eh? La cascatina. E avanti, ma dove vai? Ma è abbastanza che bello, con la pagotta. Mistra, me lo vuoi dire. Quello è il mondo già, eh? Ma è quello il posto bello. Andiamo a montinare il turista, vai. Che ne prendi a bocca di lui. Luca! Sì, stavo ascoltando un messaggio di un ma, come intendi? Ah sì. Aspetta. Turista! Rimagrimasi, eh? Rimagrimasi, se mi siete bagnato, rimagrimasi! Luca, lupo! Non è assi l'umano che è pacchetta, eh? Sì, mi piace tre piede, Luca Lupo! Ehi Lu! E bei! Luca la gheca! Ehi Lu! Qui sarà la pubblicità, tre figli all'età! Quanto è Luca? Ehi Lu! Lupo Lupo! Lupo triste! Lupo Lupo! Che c***a! Lupo la gheca! Che hai fame? La marina! Che hai fame? Lupo! Lupo! Lupo San Carillo! Lupo la gheca! Gheca Lupo! Ehi pare nella pizza, mi la gecca. Mi stiamo tirando i cibi, pucci. Sì, quanti sono, quanti è tu? Sei tu che c'erano i voli, pucci. Luca Cocconi! Sono quanti è tu? Luca San Camillo! Ah, da una facilità la pizza, che c'è ti deve affogare. E la grande pietra fai te? Per salire latte d'oro. Ah, i frutti di mare. Sì, già la conosco, vuole consegnare il pizza. Sì, la da Dio, 2,50 e 56. Non so se, però se vanno gli altri cifri, gli ha dato. Altri due. Allora, la bu, si chiama Riccardo. Sì, io da per noi. Sapessi... Sei pronto, il bagno, la doccia, che sono tutto via così di fumo. Perché quando stava accendendo la stufa usciva a fumo. Mi sono un po' infiaggato. Così mi pongo un pigiama. Tanto poi mi stato in pigiama a casa, tanto sono qui in macchina che mi vedi. Grazie la fuga. La mattina mi devo alzare presto, perché sennò devo andare al lavoro. Ma devo scendere a prendere la Maria, ci va a accompagnare da piccolo, perché lì poi devo andare al lavoro. Io domani mattina vado in via Roma con il fondo, con tutti i fondi. No, vabbè, chi vuole 9 mesi? Ehi, vabbè, mi dici che 10 mesi, io si deve andare a travagliare che fra il coraggio non mi si dà per un mattino, non mi si trovo, ma cura, come si dice, non metto la cosa, la... Ma, sono lo spegnimento. Yeah, mi collego dell'Ave Maria, e mi chiedo. Massimo Ranieri a fiancami di Bedi. Maria come sto? Smatti a fare un po' di asparagi, ne abbiamo trovato 10 in croce. Tutta la campagna prima, adesso andiamo in Italia. però non vanno anziani, allora c'è un tipo che vabbè è il cognato di questo qua che conosco, no? E va a prendere, si prende il pullman e va lì a muro sulla zona lì, ma tu devi vedere questi asparagi che fa, ne dà 105 euro. Buono come prezzo. Ah, io va via, mi mangiata, non sparisco pure con le uova. Solo adesso in quel punto lo danno bavolo e ci va un sacco di gente. L'ultima volta che era andato, là, erano gli appassati e mangiavano più bocchi. E ma anche lì zona carica lo stesso, ci bombe di gente. E quando vai alla fine non acciappi nulla. Vabbè, tanto intanto giusto per farci un risotto. Noi facciamo bene con il riso. Oppure una frittatina, dai, con l'uovo. E beh, farà un disegno in capizza, una pasta si appiattendi. E così la ringa ti sei farata, eh? Non fa vedi, eh? Non parli? Grazie, dai, niente, domani ti usci, mi lavo, dai, ciò. Un po' di pizza di fumo addosso. Vabbè. Dai, ci sentiamo fra un po'. 10 minuti, un quarto d'ora, allora, mi pongo a assare, no? Sono brutto, no? Lascia qua fino. E così, col pigiama, su con la manica i corti. Poi giù freddo. Ello! Cragicca! Luca sul gattino! A te, sto buffo! Luca grasso! Beh! A te, sto buffo! Guarda il canale 33, guarda cosa c'è! Allora, aspetta, si manca, ti ha malvigliato! E cosa c'è? Questo qua che ci mangia i panini giganteschi! Ah, di sì! Vai a mangiare un bel... Ah, non è il Rubio! Oh, non me lo più guarda, non lo so. Quello si chiama Manubrio! Tutti gonfiati, ma là, sono affrettati, non lo dico, come quelli che i chef, tutti i chef li trovava. C'è uno che non mangia tutto il giorno, ma se non mangi, cioè, cosa c'è di quanti chili di roba c'è? Di fatto che c'è una cosa di fare, poi altro che di fare. Ah, però che c'era questo scompagno avanti, fantastico, gli animali. Che vuole entrare avanti? Avanti. Secondo me si è cagato. Oh, c'era un figlio, però, a dire, c'era un bel, non lo ricordo, lo spesso. Il tipico era messo, non c'è più un capo, non c'è più giù. Davvero, me. Oh, ho capito, perché qua mi dà 60 canali e basta, in ricerca, boh. Poi l'antenna l'abbiamo cambiata, l'antenna è buona, non lo so, ho questo problema, mi dà 60 canali e basta, prima me ne dava oltre i 200. No, ma io dico la ricerca. Io sono il trecchino di cosa, certo. Ma, stai ultimata, non sai come è stata. Beh sì, perché lo stava così allarga e poi deve essere anche lui. Si rilassa, no? Sì. Si farà l'operazione. Mi piace a lui, non posso rilassare la bimba fa un po'. Lo saranno. No, ma la bimba è una bucaria. Sì, non lo so. Ma... A me il medico mi ha detto, devi mangiare l'insulto, assaggia l'insulto e non è più mangiato. A chi la vuoi, no, chi ti mi piace apri. Guarda, io a pranzo ho mangiato una fettina e mezzo di coso, di... Cos'è la pancetta? Pancetta. Però l'ha ci buccato tutto quanto, grasso, la costenna. Ha ci mangiato solo una garribù. anche dei ravioli si mangia. Ravioli, sì, no, no, ma dico, non ne mangio roba grassa io alla fine. Quello. Cioè, così non mi sale. Così non mi sale il polistirolo, capito, grazie. Io invece ho pranzato due spaghetti, tre, quattro cose al mese. Poi ho pranzato due piedi di agnello e poi un cartofo con un paio di pesce impastato. E devo dire che non ho mangiato gamba di tutte le cose spagnate. E basta. Ah, è una mela gialla. E tu? Vabbè, grazie. Diciamo, adesso, diciamo che ho un po' di mal di pancia, dai. Mari, c'è l'alito di cipolla, già. Non può andare. Io volevo dire la lingua, la cosa, il cuore. E poi mica me la mangi. Che è molto. Se mi si butta, è dritto di vista tanto male. Sai che io non posso neanche mangiare il cuore, via del problema del morbo di Crohn. Devo stare solo un bicchierista e ci sarà di mamma e una famiglia che purista e mangio così. Grazie, se mi rompi più, rompi più, vabbè, paghi su chi bigo da voi, ma faccio più, se o no, una data di vino, no, sì. No, non so. Due mezzi bicchieri di vino mi sono bevuto. Due mezzi bicchieri, alla fine. Mi sono mangiato un piatto di ravioli, 8 ravioli sono stati, 8, 9, questo non mi ricordo. Una fetta e mezza di pancetta, un po' di insalata, 2 aranci vaniglia e basta, non ho mangiato altro. Il caffè dopo, vabbè. Cosa ci ho mangiato? Anche devo stare attento. A me ti faccio un esempio, il pollo in forno mi piace un sacco, soprattutto la pellicina quando diventa dorata, specialmente salata, ma non la posso mangiare per via che ho problemi, non voglio venire al pronto soccorso. Le mangio il pesce, non so se per assaggiare le buche, se mi mangio le gambe, no, io mi ho mangiato quello che ho detto, e mezzo bicchiere di vino bianco. Con i carciucci, rocco, proprio. E niente, panizza, riso grissini, questo, però non ne mangio pane. Ma non è che ne mangio molto io qua. Qualche volta se dici da voi mi posso mettere il panino che mi sta panza. Mi faccio mezzo panino e tu mi mangio lo prima e mezzo panino, basta, no? Se la vedo che mi ne venga. Fatto così, oppure se ero un cacomela me ne mangio la metà, e se piccoli non me lo mangio più, però la metà, o una banana, o 3-4 succhi dell'arancio, così io mangio tutti, no, i zimbabucci, e non posso buffare da bene in questo modo. Saluto, sì. No, era finito il tempo. Se mi abbuffo poi mi sento male, dunque io non mi abbuffo, a chi mi abbuffa mi bacio in mano, ma sta contento così, la bomba è così, e voglio che faccia a meno di mangiare, non me ne vengo fammi, aspetta da vedere. Lo so, no vabbè, io già mi abbuffo di volte, ma un bel, cioè tipo qua mangio il primo, e poi secondo, insalata, frutta, un cacomela dighissima duri, una banana, 3 mandarini, e poi se ci sta anche il dolce. Oh, io, secondo cosa mangio mangiando, mi guardo il visto che ci piace, di buono, tanto dici, boh, basta, oggi ho mangiato, e non ti fanno, no, tanto la signora Giovanna l'ha fatto, no. Non mi dà fucilista. Cosa mangi è da bene in tempo male? No, saranno. Mi soffermi, mi durò di banca. Sembrano pugnalate, le fisse. E la metto che sempre in bagno. No, meglio risa. E anch'io ho un periodo così. Poi vabbè, ho cambiato latte, perché non lo facevo il latte, sempre in bagno, a mal di pancia, sempre in bagno. E grazie a Dio adesso già sono ripreso. È brutto sono, io quando ho fatto la visita, perché c'avevo sempre mal di pancia, cioè mi è venuto questo mal di pancia forte, non mi passava. Sono stato costretto ad andare al pronto soccorso perché era una cosa impossibile, non ce la facevo manco a rimanere né seduto né in piedi né coricato, nulla. I calcoli a cistifellea, cioè. Si sarà sempre, certo, è poco occasionale. Se mia madre si ha già calcolato la cistifellea. Sì, ma alla fine, vabbè, mi pigliava un mantelletto, lì si scuccia, pure la bile, la bile, si scucciava su capa verde, lì si è sciolta. Che cosa? La bile, quando scucciava, non gli veniva giunta, andava in bagno, scucciava verde, era la bile che gli si è sciolta. Cosa aveva? Infatti ho i grassi, sto un bel attento. Lo so, grazie, ha dato una regolata come fai, Giulia. Quando vuoi fame, boh. Magni. Ma uno non so se sai, un bel fame ti mangi, dico, il primo normale, il secondo normale. Se la beva è ancora fame, invece mangiati, batti una mela, devi mangiare. Assai. Ti sono tutti di te. Però ti stai mangiando una cosa che non ti fa male. Lo so, bisogna stare attenti. Se mangiare è pericoloso, eh. Mica è vero, all'inizio del mal di pancia, già mi è bastato di dire. Ti sta andando a copiarmi, cosa va via. Sempre all'ospedale, ricoperato. E gastroscopia, e retroscopia, e flebo, e emissione, e senza mangiare. Ma poi si bruciava la testa a mangiare, ed era un mese senza mangiare niente, senza mangiare niente da bocca. Con questa sacchetta bianca mi diceva che io stavo mangiando. Ed è un mega gran che a Cristo che lo sentivo vuoto, mi veniva nei gran. E però a mangiare non mangiava all'ospedale. Solo con questa sacchetta, tramite vena e appunto. Il corpo si assorbiva a quello che aveva necessità. Ti credo. Vabbè, diciamo che sono ancora giovane, già mi posso dare da fare ancora. Ma non conviene a buffare, si capisce, mi viene un'altra, vedi, mi non si ricavi, hai capito? Dunque uno deve stare attento, brutti da candeggiare. Io prima mi facevo certe mangiate, criminate, al circo, in campagna, ammagnati, embriagati, proprio tu mi ha detto quindi da andare in campeggio oppure in campagna, però poi mi vedo che sono punti. Lo so, anche io, anche a me. Vabbè. Purtroppo, prima o poi ti arriva e ti bussa la porta. Ma io, come dice, lo dico, non è che ti dico questa cosa, ti dico che fa pure, io mi dico, ma non fallo, ma che cazzo da voi, capitati male, capito, tu, io, fa forza, che credo, però poi, ti sei reso conto. Lo so. È vero, vabbè, basta darci una regolata, vabbè tu grazie a problema che hai, devi stare molto attento, sai che si può fare a meno di mangiare, basta la piccolità come ti hai detto, un pezzo di ghito e buono. Così non ti fa male, io me ne baseavo a buffati, ti mangiavo un burro quando baseavo la ossica. un sacchetto di cotto, un bicchiere di vino, un pane di disagio, un manno, fusata a fondo a cartone, fatta a mare, e i fiumi, cotte, grudi, limoni, a sacchetti. No, io mai, che schifo, nonno, cotte te ne posso mangiare quanto vuoi, ma crudi, no, non fanno per me, e molta gente li mangia, Ma allora le devi mangiare tranquillo, io che fare 30 anni fa, no, va, io le volte, pure le volte, me le mangio bollite e a puzza di limone, se no, si tratta in altra maniera, non le mangio, io le bollisco bene, ci metto il limone in mezzo quando stanno bollendo, e le dico bene, tutti con il zappo. Una volta che sono bollite mi rimangio, ma stesso con un limone, e se no non le mangio. Ma prima non era inclinato come adesso per ritardo farlo, ma le potevo mangiare a Platamona, me ne vado a questi mangiati tra il terzo e il quarto piccolo di quelli scogliuti, usato lo scoglio e si viene a mangiare. No, io non ne ho mai mangiato. No, fanno ben male. Buona regina, becchi gesti. Uia, figurati che mi chiamavo un gommoncino piccolo di due per due persone, tutto di gosti, ma cose maduri, le prendevo da sotto anche dalla faccia tagliata rossa, non da sopra, da sotto, sotto la mano. Mi tiravo la retina, stavo in bigiavo e prendavo con molti. Quando era pieno mi giurava la ruba, mi magnata. Ah, scendevi tu sott'acqua? Allora andavo a pescare acqua, stavo bruttito, sottile, brutto, a tutto la vita. E stavo e questo lo portavo a casa oppure lo rinviavo. E va, in estate. E rifiuto, da le finisce di rifiuto già tra il terzo e il quarto piccolo, non so faccio lo stesso. Sì, ho capito. E si accappa la caravella e si stava tutta l'estate fino all'inizio di ottobre. Sì, certo. Infatti me lo vendevo, quello che prendevo vendevo, grossi, pesci, forti, e si va via di vino. E voi non mi pigliavo la carro, ma mi dicevo, ma non eri coiuvato? No, non lo mai, ma è vero. Ti hai fatto una villa in chino. All'inizio della casa, senti, per obbligare che mi faccia, se mi imbriaghi, lì. Tutti subiendo di niente, e adesso la gente di salati ha passato, e niente come dal bosco. Beh, ti credo. La salati in chi, pensivo, a voglia, si diventa niente. E poi se ne vanno anche gli altri. Ma vieni, faccio col cambio. Vabbè. Dove andiamo noi alla marina, più delle volte un tipo di domenica viene lì, c'ha l'acqua scooter, entra, si fa un po' di brescia e poi si esce. E no, butta il fuori. Ma sei lì alla marina del sotto, c'è un come si chiama, fa vento, brutto. Il gronco andrà di razzo. Ha già detto che lo gronco andrà di razzo. Perché stavo pigliando? Sono questi corini che si sono fatti da caglia e non è tutto bravo. No, ho detto che lo gronco andrà tirato, quando lo pigli andrà tirato, ma per, come si dice, per le spine. Ehi, già lo so, si prendono tutto più alla cosa, infatti la gola. Ma lo sai perché? Questa volta mi assistavo un buco sotto lì, perché prima di mani di me. Non posso immaginare, ma che ci che ha fatto questo Aspettaglielo due lati d'oro. Una cosa di una futtappe. Ah, Pipo, già, come se vuoi molto. Magone, no, adesso vado a precuotere. Già vi sto ascoltando, dai, che non posso entrare. Ehi, a pizza, stavamo, adesso lo metto a precuocere così sono pronte. No, sto prosciutto, booster, capito, tutte cose, tonno, cipolla. Siete sovramodulati. Pomodoro fresco, oh yeah. Dai, presto, scusa, E allora? Cosa ci vuoi fare? Qualcuno si offende. Che tu non la mangi a barripa in bianco, così. E te l'appoggio al 100%. Abita la rima la remuta. Eh sì, grazie. Insomma, non sa di niente in effetti, cosa va? Latti, vai, buh, la mozzarella. Va. Dopo ti mando le foto, Luca Gufo! Diglielo, grazie! Diglielo a Luca! Cos'è la milizia? Diglielo, che lui non lo sa! Diglielo, grazie, che è la pizza dei poveri a Luca! Diglielo! Così non parli più! Infatti non è più mai Margherita! Difficilmente, ho quattro stagioni con la giunta di panna, o col pescatore. Adesso faccio la precottura, no? Poi, quando è il momento, ci aggiungo la mozzarella, tutti gli ingredienti e la rimetto in forno. Eia, buoni, già sono tutte belle. E chi è? E chi? Non lo so, sarà offeso adesso. Luca! E lui! Mangia la pizza di Luca Gufo! Ti ho preso Luca, non ti parla più! Vabbè, la possiamo riempire, la faccia qua gliela piena! Ma tu non hai la banana, contenta sì! Gatto, non sapevo, io ti stavo per bloccare, ma non ho fatto in tempo! Luca, è la me, piangendo Sammy, Luca Lupo. Ecco il proprio tavolo, la vergognata. E fagnene una pure a lui, non ci basta che la mia quando è a segno in pigiama. Gliela fa la forma antenna, senza grattista. Così la mette in la ringhiera. Oh no! Buona questa pizza per Pucci, ma carità. No, già 2 anni io, sono sicuro che sono in mano. Ma c'è qualche pezzo di PL in chiave in mezzo, qualche riduttore, qualche pezzo di film, avanti. Così trasmette bene nell'intestino. Luca, mica ti lasciate persa, amico. Aiù, fagliela Luca Gufo, questa pizza a forma d'antenna. Parabolica. Ah, che direttivo è messo. Vai, non ti rispondi lì, Tutto fatto, l'ha visto online. Sto controllando le piste. Ah, vai, non è più giù. oggi la mangia da venerdì, una volta alla settimana la mangia. Ma questo è speciale, c'ha le onde magnifiche. Allora, ne ha messo il capocollo doppia calza anche in mezzo. Si è le bacchiste. Beh, sai, ci ha piccato anche disegno, qualche copicatura. Ma ti siamo mandato la foto, non ti contate lui. Ma tutti i servizi di mani, Luca Gruppo. E lui pure una sedia grande, anche quadrata, c'era di quel taglio. E allora? Ah, vabbè, siamo in tre qua, ma poi devo mandare anche qualcuno da mia suocera, capito? Grazie. Cosa vai? Pure di capire. E sono quattro sedie rotonde e una, eccola, quella rettangolare. Ma giù mi sono una puntagnetta, ma sa che PL. Ho messo l'ugna, Gisù, dell'agnello, perché ho messo il sugo dell'agnello, capito? Il sugo del piedino dell'agnello. Eia, no, le piste, il sugo, lo faccio con i piedini dell'agnello, capito? Ehi, si va a farmi lasciare la maglia. Chi si mangia il burro, si mangia di tutto. Va. Cos'è? Non so 2 euro. E giù. E beh, giù. Giù. Ah, ho tutto il minicino. Ti morti sono. Sicuramente. Ma lei domani chiudi? Boh? No. Mettiamo un casino. Ma bisogna esci più a poco d'aria, non so se stavi male, vabbè. Lo so, vabbè, già che si è affatto. Ma non ci sono uscito se mi butti a me. Cazzo, sta barola. Nessuna risposta mi hanno dato per quella che sta lì. No, niente. Oh, io non vuoi te, siamo un furgone, ce la butto a posto un po'. È bella comunque. Grazie, io te l'ho messa e sto. Gaietti, guarda già rigaro, capito? E anche il mazzo. Ah, la mia figlia. Beh, non so se era delicioso. Quando te la provo? Io te la appoggio. Sì, magari ti dà una miseria. No, il controllo che erano russi che ti sono tagliati e mi aveva tutto per due. Ma subito dopo che hanno venduto? Non sei fratello. Sono cari e dica, come te la butti? No, ho capito. Pompunio! Dimmi tutto! Dormito sì? No, oggi sono sveglio. Sono addormentato mia alle 3, un'oretta, perché non sapevo cosa diavolo fare. Capito? E tu venivi da me e facevamo l'amore. L'ho capito. Ho da Graziano andare a fare l'amore. Ciao Mario, barrato, non sei uscito. Allora già vai bene. Avanti, Luca, cosa stai vendendo Luca? Un trattore, ti interessa, un trattore e una motosega. Lui, per carità, se vai da quel napoletano per la motosega ti darà 100 euro nemmeno. E allora la regola Graziano, fa regalare la Ghidu. E cosa? La motosega. La motosega ce l'ho io, te la compri. me l'ho venduta, la mia è roba nuova, nuova proprio, messa in moto, guarda, 3-4 volte, ma mai usata. Guarda, è nuova, nuova, ma non mi sentivo, ha certificato come cognato in campagna. Le ha detto, tra voi? Di quella nostra sveglia. Per tanta è nuova, nuova, nuova. C'è anche una catena nuova, nuova, messa e neanche usata. Guarda, grazie, io con 80 euro me la compro nuova, nuova, con 2 anni di garanzia. Questa è di marca, la vedi, nuova, nuova, non fa un... Ma che marca è? Ah? Di che marca è? Non mi ricordo che marca è, ma io mi ricordo, l'ho pagata 120 euro quella marca, da carbone. Vabbè, comunque la garanzia conta molto, grazie, non si che conta la garanzia. Io ho avuto una piccolina, bella, bella, e girava anche bene il motore, di lusso, perfetta era, e l'ho venduta. Sì, la mia è nuova, nuova, cosa vuol dire nuova? Lasciatela, non si può. È nuova. L'ho usata una volta e due, e a tagliare pure tavoli, pedane l'ho usata, neanche legna, a tagliare delle pedane l'ho usata, il giorno che l'ho usata. Vabbè, se poi ci mettiamo d'accordo te la faccio vendere, ma mi sapete che marca è? Non me lo ricordo la marca, è nuova, nuova, nuova, se te lo puoi scendere. In cui ho messo tutti i cavalli, era l'ospedale, è sceso mio cognato con le sue motosena, 3 o 4, minore in mano, e la puta di giù. Ma è grande o piccola? Ah, è grande o piccola? Ehi, evidentemente l'hanno chiamato. Per me sarà normale, non penso sia molto grande. Costano comunque, se vai in negozio sono motoseghe, non più di tanto, però già costano, se ne vuoi una buona. È morta la batteria di acqua, adesso la metà dell'altra. Stavo dicendo, ma è piccolina, ce la fai con un braccio, sì. Mi sembra che... Vabbè, fagli le foto e mandamele, quando puoi. Vabbè, la mola grande ce l'abbiamo già, la mola età piccola ce l'ho già, come si dice? Fammi le foto della motosega, vediamo. Ora. Me la carichi oggi in macchina, me la carichi oggi la legna. Ma chi è che non fa la macchina? Fa una zizzetta, fai cantarsi qui. Vieni al posto, non me la zizzetta, fai cantarsi qui. A tutti i bambini, i figliati, ma le piace. E si la vede. Ah, no, la macchina non è carica. La macchina è fatta per i cristiani, non per caricare la legna. Grazie. Riprendi, pronto. Ehi, già carichi la vuoi in macchina? Ci ho caricato un televisore, non appunto io. Di quelli vecchi, vecchi, vecchi, mi. Pesava un bel po' di chili. Giusto, giusto, centrato nel cofano. Pura lì è direttamente in discarica. Un Philips era. Con il tritubicato vicino dentro. Avevo voluto vedere guidando con 20 galline dietro. Per la madre non ha caricato le uova. Cazzo, boccetto dentro la macchina. Per carità, ma se ti cagate sui sedili già lo fai a fare. C'era la pallera e mai. Hai visto, Luca? Io mi ricordo una volta era successo a Giuseppe Altamura, ci aveva fregato un paio di agnelli e l'avevano sparato rientrando da Nuoro. Capito? Ho visto questo pallettone in questa macchina che aveva, una 127 mi pare che era. A me mi hanno fatto un ingaggio. Sta buccata la macchina, raga. A me io ho diventato un paio di anni di una banda di attivo, a Nuoro, di Luzano, e la ci sono iniziato qui a Firaggiani, quando trovo una cosa, a Fretanetta, era un giallo di un cosa, la stessa cosa, e noi la ci fatti qui. Hai fatto le ciò stazionarie, perché? A tre piedi. Sto girando le palle, aspetta. Luca, fai un sorso lì, calabri. Ho cambiato questo capo, ga. Sta girando le palle, è vicino. Sta volando. E ogni tanto mi ha stazionario, ogni tanto sì, ogni tanto no. È quello della direttiva, eh. Ah, fanculo, cazzo, non riesco a revisarlo. Vedo qui. No, la sta segnando. Ehi, PL, capito? Allora, aspetta che attacco l'altro, aspetta. Luca! Luca Russo! Ascolti 1, 2, 3, 4, 5, 6? Così si metti in sé. Hola. Così va bene. E poi cambiano questo piede, non ce l'hai in questo ragazzo che ce l'ho anche. Cucù. Già ti sento. Hola. Occupato. Ulala. Ah, te ne hai cambiato. Graziano. Ehi, già ti sei. Graziano. Come sei? Adon. Ovolio. Luca morto, sì. Avanti, non stai scendo. Stai fischiando. Tu ti sento. Adesso mi sei. Adesso ti sento. E cosa fa non sta scendo? Prima sì e poi no. E ho provato a cambiare l'antenna, solo che con l'altra non ti sento con la verticale, perché sento una ombra. Beh, no, non devo cambiare il piede, non ce l'hai con terrazzino anche. Se non ti metti in un punto buono non ti sento grazie. No, sempre nel punto di poco fa, mi sento. Ma ti sei abbassato un pochettino. E qua mi senti, Via, già ti sento. Perché non lo cambi il piede in quella là? Non ce l'hai nel terrazzo anche. Io ce l'ho sopra il tetto l'antenna, solo che c'è lo spessore di dietro delle pielle, e capito, è vicino il capo. Ah, bene male a cambiarlo da sopra il terrazzo, sopra il sopra il terrazzo. Mi dà domani attiva lo controllo a vedere cosa diavolo c'è. Ragazzo, non l'hai nascosto, ci sarà umidità. Ecco, la verticale, buh. Provo a parlare. 1, 2, 3, 4, 5, mi senti Antonello? 1, 2, 3? Sì, ti ascolto, tu mi ascolti adesso sulla verticale. Un po' già ti sei. Basso mi senti? Appena appena più basso, ma già ti sei. Crocro. Aspetta, qua meglio mi senti. Mi senti meglio? Caruso sì. Ciucchicciù, ciucchicciù. Già ti sento. Ciucchicciù. Ciucchicciù, ciucchicciù. Luca Caruso. Oh, ormai niente. Luca Gufo, pronta la pizza. Pizza non ce n'è. Ehi, mi ha mandato su WhatsApp la foto. Quattro pizze rotonde giganti. È una in teglia del forno. Ha voglia di magna allora? Ehi, le stava precocendo, poi le deve condire bene, vedi sassiti, prosciutto, di tutti i tutti. Come la fai lei oggi? È più buona, così non è attiva quando ti svegli, tiene altri accussi. Però io da ieri sera nel forno, la notte mi davanti, mi dai caldo, mi è arrivata mezza pizza. Ah, è buona, stanno mi dai caldo, e di profetti mi rimani, io va. Conviene mangiare pollo stanotte. Ah, il pollo. Lei ha portato il golfino e si è girata, ti mangi si vede la padrona, ti immagini? Aspetta un attimo che sono al telefono. Ehi. Gira, gira, va più buono della pizzeria, dai, gira, gira. Non per vantarmi, ma credo che dove vai tu li faccio 3-1. Sì, sì. Se vuoi si continua mi batti tu, non te la vengo a parlare di pizzeria. Oh no, non credi. Illu! Illu dando! Allora che vai a che PL è mezzo, no? Anche un'antenna in gomma con me. Vabbè. Capita, quando si scioglie la gomma. Come ti piace allora? Un po' dove c'è il connettore, giù. Zio Marina! Ma cosa ha avuto Zio Marina? Ah, sei entrato. Attento, Zio Marina. Ma c'era tutto bisogno di dare la cosa. Adesso che si mangiava qualcosa, pur. Carino, sì, la cosa che si mangia, come ci mangiassi tre, quattro, devi mangiare uno di più. Non si capisce se è la glicemia, la pressione. Camari! Camari! Gesù! Pomponio! Tu che sei la bagno! E lo dando! Allora io ho messo la sveglia alle 6:10. Così. Siamo, posso prendere la te, posso prendere la Maria e ci facciamo lasciare lì la vita. Ma se no vabbè non me ne beso lui, se pongo le sveglia di 7 è un casino. Vabbè, se lo sapessi meno un quarto. Così che... Cosa? Sei meno un quarto, io ce l'ho sempre. Scusa, ma... mi lavo, mi cambio, mangio. Anche se dobbiamo essere da lì come lui. Quando partiamo qua alle 7:30 va bene. Intanto lui ha detto che viene alla 7:15, ma poco ci credo. Sì, poco ci credo. Si fa come tenia lì, che ti dà il primo orario e ti ne viene prima da buio. Vabbè, non è da buio, da parte di stanza siamo pagati, siamo a così giù. Intanto entriamo, carichiamo il materiale, tanto dopo arrivi, paga. Vai? Beh, un po' più sicuro. Allora... Questo pomponio! E l'allu! Ma che bici? Ancora il chicco, va... Sapete, se dobbiamo riaccendere il forno, nella parte di su, e poi solo giù la mozzarella. E chi zanco? Allora, poi abbiamo mangiato prima che... dall'impatto di rimasto, ho fatto delle focaccine. Ci siamo butti di unghi. Di quanti zitti? No, in tre. Ne ho fatto 4. Ma sono quelle tagliette, non è che sono capito. Poi due ne ho dato a mio figlio, che mi va mia sorta. Se lo dico a Nanni, se mi sta su, lo dico. Faccio 3-1. Ma io la duravo. Percentuale, non la vuole una stipendia. Minimo devi dare 3.000 euro al mese, minimo, ma andrà bene. No, mica ci vado io a prepararmi le impasti, famiglia, no. Sono proprio pochi. Vabbè, tranquillo che la diarrea, quello che non più bene. Ma non è che mi ha fatto venire la diarrea, che con la pizza si fa cagare. Può essere la mozzarella, la piccina, che sei magari... cose di stomaco già per il latte o comunque il latticino ti fa quello che poi si usa l'acqua del rubinetto ancora piccio adesso ti puoi fare anche la faena in casa, non ho già fatto quei preparati per fare la faena in casa. La vendono? Al mercato l'avevo visto, preparato per faena. Lo puoi anche comprare già la farina di ceci e portarla tu, però quelli sono preparati per fartela in casa, perché se la fai normale con pizzeria non ti esce, capito? O ti esce secca o ti ci cruda, perché il forno non è uguale, capito? Ma dici i gradi del forno? Allora, tipo le pizze rotonde così, vanno da... 400 gradi in su, capito? E anche la Fenei, così che, ecco perché se tu vai a fare una pizza tipo normale della batteria nel forno di casa non ti esce perché è troppo bassa la temperatura. Questo non te lo so dire. Cioè ci mette un bel a cucinare ma si secca pure, capito? La pizza deve stare 2-3 minuti, non di più. Nel forno di casa invece ci sta 5-6-7 minuti anche, capito? E la mozzarella tutta tanta prima. Allora, una volta l'ha fatta mia cognata, quelle pizze, mi sono fatta lì l'impasto, cucinava questa pizza, mi rumai male tutto, allucinata, e tutti che insomma gli altri cose, mi dipieghi, sbattuta a terra, vabbè, non si è spaccata, non si è tutta che la palla, ma veramente non sto scherzando. Ah, prima, io perché le precuocio prima? Le precuocio prima io, le metto il sugo, faccio l'impasto, poi quando la faccio riposare, secondo me la teglia, un'oretta, poi le metto il sugo e la faccio ancora riposare un'altra mezz'ora, poi le precuocio solo col sugo, capito? Perché avendo spessore, giustamente, se no ti si fa rimasticare la cosa cruda, invece così è precotta, poi da fare, ti metti tutti gli ingredienti e la rimetti col forno acceso sopra, cioè più vicino possibile la fine alla parte di su, intanto è solo sciogliere la mozzarella. No, capito. Le pizze di alta le ho già fatte, se hai notato, le precuociono, no? Le pizze, se tu hai notato, le precuociono e poi ci mettono sopra gli ingredienti al momento che la devono fare. Sì, sì, le pizze di alta le ho già fatte. No, ci mette troppo tempo a cucinare, è un pesce crudo, la mozzarella si brucia quando fa cucinare bene la pasta, e mentre le altre, siccome i forni sono a 400-500 gradi, cucinano subito, capito? Le spianate si fanno a 580 gradi. Ehi, tico tico, tico taca. Vabbè, Spike, è Di Marco, televisione. Eh? A Spike, c'è cioè Di Marco in televisione. Dove è Spike? 49. C'è Di Max? No, 49, Di Max 52. C'è Di Murphy. Ah. E danno sempre i film tipo Jerry Calà, che sono dei Sica, quelli lì, capito? Io tra adesso, la mia, devo salentare. Cazzo, la fica non è venuta. E lui? Cazzo, mi ha precisi. Cosa? Precisi. A te? Buon sangue non mente, Somiglia un bel. Ehi, siete. Beh, ma anche con Costanzo. Ehi, io sono più preciso, vabbè, la camminata sono più preciso. Cosa c'è l'analogico corrotto? Non è necessario, l'analogico. Devi prendere anche una curva qua, lui. Eh? Ho detto, devi prendere anche una curva per quel quella che è rotto. Sto pensando lì, cosa... Forse mi metteva il suo. Ma ci l'ha un patto. È un bel problema, eh. Ma secondo me quello non è più in funzione. Ma che non sia... No, ma di su no, Di Maria non può essere, perché arriva dalla parte di Sinatore. Io ti ho detto la curva di quello delle Ienemi. E quale? Ma quello che abbiamo tolto con la braga? Ehi, quello che ti ha detto con la moletta. No, non gliene rimettono. Se la rimette il pigio. Sì. Perché appena si piena, l'hai visto? Non ce ne vuole curva lì. Io spero che non si sia demontato. Ma se era solo lì davanti... Non credo. Adesso intanto vediamo, decidiamo se romperlo il canale o se lasciarlo stare adesso. Se non è intasato possiamo anche lasciare stare. Come sollevarlo da troppo sicurezza. Anche sarebbe meglio, anche se dopo va a strozzarsi. Però. Se leggermente fai gasso di 10 cm, un esempio, no? Quello fai a 20, anche a 30, non va bene l'altezza, a Vuglia. Infatti, così riesce ad entrare il tubo dell'autospurgo. Anche. E dentro, buffo! Sei un cuscio e giunto. E io? E chi è? però rosi. Aspetta, fa bene il brocchino col tappo. Sì, tu sai che cuso di giunto. Sta facendo la vita, quindi sta per te. Ah, ci sapevo venire alla valigina. Gelosa, sì. No, come la valigina. No, andavo io, sei gelosa, no? Ho detto che andavo io alla valigia della schiena, non sei gelosa. Sì. Era la prossima volta, siccome Luca mi ha detto, è andato a farsi la doccia, ma io non l'ho sentito perché ce l'avevo spento poco fa. E vabbè, la prossima volta devi chiamarmi. Non ti preoccupati perché vengo io non ti viene. Ha saputo il primario, vi avrei tolto tutto, ma non vi vergognate che condizione siete. Prego, cosa ti manca? Che manca io e che noi? Tra gli amatori che ho tenuto il cazzo. È vero, ma non avete conto che volete le frequenze per mettervi a morire i coglioni, cazzo. Ma chi? La frequenza la tua, tu la paghi. Certo che la pago. E voi che avete il cazzo, volete le frequenze. Ma vero, ma perché non mi vergognate, cazzo? Oh, bisogna pagare le frequenze, pagate, Luca paga la frequenza. Quanto è 1,50€? Oh, non lo so. Gio Maria si è inteso. Ciao, buonanotte a te. E beh, Fabri, trattando, ma tu eri poco fa, no? Boh, cioè, non penso che stiamo rompendo le palle a nessuno, eh. Siamo qua, ci facciamo gli affari nostri, la nostra chiacchierata, le cazzate nostre, mica noi andiamo a disturbare a loro, non credo, a me non mi risulta. Boh, comunque, vabbè. Oh, tanto mi, vai in 27, ti poni la mostra di nocchi, rompi le palle, tanto pari, Simili, baracchino, e arrate si dappertutto. Io non ho problemi, capito? Non... Io sono qua così a parlare con voi, ma sta nel tempo, dire qualche cazzata. E cosa devo fare? Non penso che ci stiamo comportando male. Poi non lo so, va. Guarda, io... diciamo che tempo da perdere non ne ho, guarda. Come l'ho comprato me lo posso rivendere tranquillamente, se no posso anche mettere da parte. Non mi fa né ricco né povero, Fabri. Io li manco centro ad ascoltare, vedi un po'. Sono sempre qua, manco centro, perché non mi interessa, non... Cioè, non mi piace anche parlare. Poi se non me lo posso permettere di parlare lì e sto qua. Tutto qua. Ma se non si può manco stare qua non è un problema, eh. Ci prendo ce lo butto. Io ne conosco tanti da amatori, cioè. Non conosco tanti, ma grazie a Dio non penso di averli mai disturbati, perlomeno. Beh, vabbè. Non c'è problema, io non è che... Tanto la faccio, voglio la prova appena pagata, perciò... Sì, Fabri, ma so cosa dici, guarda. Oh, yeah. Non puoi fare nulla, adesso con le nuove leggi non puoi fare niente. Non puoi manco scorreggiare, cazzo mi avvento che vengono qui. Sai cosa ci vuoi fare, Fabri? Uia, per carità, va. Ciao Fabri, ciao. Ho capito! Sto domando! Adesso cambio zona, va. Mangio un po' di frutta e poi cambio zona. Tu bizzona. Ciao Lucio. Chi è? Venga avanti. Venga avanti. Aiù, aiù, aiù. Polpi uno, polpi due. Polpi uno, polpi due. Avanti. A Don Anello, sì, sì. Don Anello.